Il segno della giornata di ieri lo ha dato il Presidente della Repubblica con due interventi, uno contro la deriva correntizia della magistratura, l'altro nell'esprimere al governo la necessità di presentare risposte rapide e concrete nella richiesta di fondi all'Europa. In sostanza, sbrigatevi. Sergio Mattarella dunque prende la scena e costringe il Presidente del Consiglio a un supplemento di riflessione in una giornata nella quale si riunisce il Consiglio europeo proprio per discutere anche di Recovery Fund. Il resto della giornata fa segnare una risalita dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva e una polemica sui festeggiamenti dei tifosi napoletani per la vittoria in Coppa Italia, con Salvini che dice allora non ve la prendete con me. Oltre che l'audizione dello stesso Conte sul caso Regeni, il Premier si è assunto la responsabilità dei mancati passi avanti nel confronto con Al-Sisi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezzi e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want. Any old time, I'm free to do what I want. At any old time, so love me, hold me. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, sono le 6:33 minuti. È il 19 giugno ed è venerdì. Come state oggi, eh? Come state, cara Task Force di 24 Mattino? Potete raggiungerci come sempre, potete raggiungermi al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, anche WhatsApp scritti naturalmente, SMS. Vi aspetto. La task force operativa di questa mattina è composta da Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, il resto della redazione, Alessandro Marcotulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Ci siamo, ci siamo. Adesso vi porterò sulle parole del Presidente della Repubblica Mattarella sui magistrati, perché sono parole importanti, è la prima presa di posizione veramente forte, come vi dicevo prima, in una giornata nella quale sicuramente il Presidente della Repubblica si è preso la scena e i più cattivi interpretano questo richiamo sui fondi europei come una vera e propria strigliata all'esecutivo a dire: oh, qua non si può aspettare settembre, tu devi andare ai partner europei e dirgli: guarda, coi soldi voglio farci questo, perché sennò la Merkel ti risponde: aiutami ad aiutarti, lo vuoi questo recovery fund? Dimmi che cosa ci vuoi fare. E ragiona sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità. E però la prima voce che vi voglio far sentire, dato che a volte ci accusate di questa trasmissione così critica con il governo, così critica con il Presidente del Consiglio, in realtà non è esattamente così, colpiamo un po' da tutte le parti, però vi devo confessare una cosa, io ho un debole per i politici che si prendono, quando i politici si prendono le proprie responsabilità e dicono: è colpa mia. E dunque queste parole di Giuseppe Conte ieri di fronte alla commissione Regeni, sotto questo aspetto devo dire la verità, mi hanno colpito. Erano un poco dispiaciuti del fatto che con questa presenza diplomatica lì in loco noi non avessimo e non ottenessimo risultati. La mia risposta è stata: beh, state a prendere col Presidente del Consiglio che ha qui di fronte. Il Presidente del Consiglio incontra il Sisi vis-à-vis. Il nostro diplomatico al Cairo non incontra il Capo dello Stato. Quindi se c'è un'incapacità per il momento di raggiungere dei risultati maggiori, questa incapacità la puoi imputare a me direttamente. Non male, non male, non male. Mattarella dunque sui magistrati e sulla degenerazione delle correnti. Sentiamolo. Questo è il momento di dimostrare con coraggio di voler superare ogni degenerazione del sistema delle correnti per perseguire autenticamente l'interesse generale ad avere una giustizia efficiente e credibile. È indispensabile porre attenzione critica sul ruolo e sulla stessa utilità delle correnti interne alla vita associativa dei magistrati. E più in generale sulla credibilità della magistratura. Nel nostro Paese, come in ogni altro, vi è costantemente bisogno di garantire il rispetto della legalità. Anche per questo la magistratura deve necessariamente impegnarsi a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messo in dubbio da recenti fatti di cronaca. E ovviamente il riferimento è all'inchiesta di Perugia, quella su Luca Palamara, tutte le chat, tutto quello che abbiamo raccontato in queste settimane. E poi appunto la questione dei fondi europei. Qua un ascoltatore chiede come mai il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, lo vuole usare solo l'Italia, al momento sta pensando di usarlo solamente l'Italia. Qua ci vuole una risposta chiara. Allora, la Grecia ha delle ragioni tecniche perché ha già in atto dei prestiti, per così dire, tradizionali. Ne abbiamo parlato ieri con Carlo Calenda, se ricordate, alle 8.35, dei prestiti col MES nel suo uso tradizionale, come fondo salva stati. La Spagna ha delle perplessità per il momento perché ha già dovuto utilizzarlo per salvare le banche e quindi c'è anche là una condizione diversa e particolare. La Francia non ne ha bisogno perché si finanzia sul mercato a tassi molto più bassi dei nostri e quindi questo è. Però qua lo snodo è politico, caro Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Come stai, Francesco? Buongiorno. Buongiorno a voi. Buon venerdì. Ecco, buon venerdì. Lo snodo è politico, caro Francesco, ed è tutto nelle parole, mi pare, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri, come dicevo, si è un po' ripreso la scena sui due fronti, quello da Presidente del CSM, quindi sul tema della magistratura, e dall'altro sulla necessità che il Governo acceleri nella scelta di questi fondi europei. Sul primo tema, quindi, da Presidente del CSM verrebbe da dire meglio tardi che mai. Lo scandalo Palamara ormai, diciamo, ha un annetto, quindi cammina con le sue gambe ed è già in odore di svezzamento, e il Presidente della Repubblica non aveva mai usato parole così forti per commentare quella che a tutti gli effetti è, diciamo, possiamo chiamarla la questione morale della magistratura, la mani pulite della magistratura, sì. E che è stata trattata evidentemente in tono molto molto più minore rispetto a quanto è stata trattata la mani pulite della politica. Ricordiamo che diversi membri del CSM si sono dimessi dopo che è scoppiato lo scandalo Palamara qualche mese fa, ormai più di un anno, e allora le parole del Presidente della Repubblica sono state molto più rade, è stato l'interesse dei giornali e insomma. Diciamo che in qualche modo, e soprattutto, non si sono riempite le patrie galere di magistrati come al tempo si riempirono di politici. Diciamo che la magistratura fino adesso i panni sporchi se li è lavati in casa, ultimamente vediamo che qualche presa di posizione c'è, ma lo scandalo forse andrebbe raccontato per quello che è, cioè un problema sistemico all'interno della magistratura che in qualche modo agiva con la politica per decidere le nomine di giudici amici all'interno di procure o di giudici amici all'interno di procure che controllavano altre procure. Sì. Ed è una questione, Francesco, è una questione che esiste da anni e che è rimasta sostanzialmente sotto traccia, ma nemmeno troppo sotto traccia, per poi emergere. Sotto traccia perché Berlusconi ne parlava. Sì, sì, ma non è solamente per questo, Francesco, non è solamente per questo. Ricordo, i lettori attenti dei giornali ricorderanno molti pezzi che spesso venivano ignorati, li leggevano in pochi perché erano a volte anche addirittura i messaggi trasversali nei quali si raccontava di questi questi rapporti correntizi, di come questi rapporti correntizi influissero su quello che dovrebbe essere un processo meritocratico, ossia la scelta di un capo della procura, perché poi l'effetto finale, uno degli effetti finali è: non chiedetevi perché i processi sono tanto lunghi, se le scelte dei capi delle procure, dei vertici dei tribunali avvengono per cooptazione, insomma, non puoi aspettarti di avere la massima efficienza. Prego, Francesco. No, uno, assolutamente. Due, il tema vero, che è il tema della politicizzazione della magistratura, dell'inefficienza della magistratura, l'abbiamo affrontato per 20 anni come tema ancillare, diciamo, in qualche modo, agli attacchi di Silvio Berlusconi nei confronti della magistratura, agli attacchi della magistratura nei confronti di Silvio Berlusconi. In qualche modo ha polarizzato il dibattito, ovviamente, il Cavaliere nel suo ventennio. Certo. E, diciamo, concentrandoci troppo su Berlusconi, ci siamo dimenticati di quella che era la sua controparte. Quando tu parli, Simone, del tema scegliere il capo della procura, io ricordo che se tu scegli il capo della procura di Perugia, scegli la persona che controlla la procura di Roma, quindi scegli una figura altrettanto importante in qualche modo rispetto a quello della procura di Roma, che il riferimento veniva definito a suo tempo il porto delle nebbie. Il riferimento non è casuale, perché nelle scorse ore, come gli ascoltatori sanno, perché poi ne abbiamo parlato con un magistrato, un membro del CSM, Sebastiano Ardita, proprio ieri alle 8:20, non parli a caso della procura di Perugia, perché è stato appena scelto Raffaele Cantone alla guida della procura di Perugia. Poi c'è tutta la questione, appunto, dei fondi europei, degli stati generali, e ieri è stata la volta del turismo. I retroscena raccontano con qualche irritazione del presidente del Consiglio, ma soprattutto con un mondo degli operatori turistici, anche di questo parleremo più avanti in 24 mattino alle 8:35, che è molto preoccupato, anche perché questo bonus vacanze, del quale ieri tanto si è parlato, del quale tanto si è discusso, perché scatterà, partirà dal primo luglio, in realtà prevede, ancora una volta, questo paese non riesce a fare le cose semplici, Francesco, io ci divento pazzo, prevede un meccanismo complicatissimo per cui tu arrivi, l'albergatore, quello dell'agriturismo, eccetera, eccetera, gli dici: voglio usare il bonus vacanze. Allora lui ci mette l'80%, che diventa un credito d'imposta che però, volendo, può cedere a qualcun altro, per esempio ad una banca. L'altro 20% va in capo a te e diventa, non ho capito bene se è una detrazione tua o anche qua un credito d'imposta, no? Che vogliamo, allora, dirci? L'aumento della... vogliamo dirci una cosa molto semplice, anzi due cose molto semplici. La prima: e più c'è complicazione, vuol dire meno ci sono soldi, nel senso che il meccanismo è tale per cui si spera, a mio avviso, dalle parti di Palazzo Chigi, che nessuno lo usi, dice. Che nessuno lo speriamo che lo usino il meno possibile. Lo stesso vale per la cassa integrazione, ovviamente, lo stesso vale per tutto il collo di bottiglia dei ritardi sui finanziamenti alle imprese, sulle moratorie, sui mutui e sui soldi, diciamo, garantiti dallo Stato alle piccole imprese, di cui ieri tra l'altro mi raccontavano anche gli ritardi colossali nelle istruttorie e anche tassi di interesse abbastanza elevati. Forse andrebbe la pena metterci il naso, diciamo, in quello che è il rapporto e i meccanismi che sono usati anche dalle banche per gestire questa emergenza. La seconda cosa da dire è che il richiamo di Mattarella è legato al fatto, e qui sono molto d'accordo col Presidente della Repubblica, per quello che vale la mia opinione, che questa è un'emergenza economica gigantesca, devastante, è una crisi che ci farà perdere circa 10 punti percentuali di PIL, che porterà ad avere, si stimano, attorno ai 2 milioni di occupati in meno e 1 milione di inattivi in più, che porterà moltissime imprese a chiudere e che porterà il pro capite di questo paese a decrescere a livelli dei primi anni 2000, si dice. Dentro tutto questo contesto, gli stati generali erano, diciamo, in qualche modo l'idea di una ripartenza importantissima, ma sono stati l'ennesimo gigantesco convegno. Il richiamo di Mattarella è: servono i soldi, servono subito, ne servono tanti. Oggi leggiamo sui giornali che addirittura viene negoziato a ribasso il recovery fund. Ecco, sì. Forse Mattarella sta dicendo a Conte: occupati di evitare che i paesi frugali negozino al ribasso il recovery fund, visto che, sì, diciamo, c'erano riunioni Consiglio europeo proprio in questi giorni e magari dedica meno tempo agli stati generali. E devi farlo, e questo puoi farlo solamente ovviamente presentando un piano, un piano che sia delineato, il traffico. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Il bonus vacanze, scrive Armando da Modena, sono soldi non soldi come il materiale delle mascherine in tessuto non tessuto. Però magari quelle funzionano. Oh, magari funzionerà, non lo so, sinceramente. Polemicone sui festeggiamenti dei tifosi napoletani con Ranieri Guerra dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di sciagurati. Sciagurati, cosa vuole che le dica? Il problema è tutto lì. In questo momento non ce lo possiamo permettere. E Salvini, proprio lui, quello che gira senza mascherina, che si fa i selfie ad un passo con tutti, che dice: ma dov'era De Luca? Mi domando dov'era il signor De Luca, quello che era pronto a usare i bazooka contro i milanesi e contro gli italiani che andavano in giro per Napoli e per ma la Campania. La responsabilità è la polizia municipale, quindi il sindaco. De Luca che replica su Facebook: daremo domani senza fretta una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Così. Quindi domani avremo gli audio oggi avremo gli audio di De Luca. Wow. De Magistris ha vinto il contagio della felicità. Ha vinto il contagio della felicità ieri. Ha vinto, vabbè, speriamo che non porti altri contagi. Non credo. E poi altra inutile polemica, quella sul povero Sergio Silvestre. E ieri ci abbiamo scherzato, ve lo ricordate? Vi abbiamo fatto sentire quel passaggio di una pallottola spuntata nella quale Leslie Nielsen, il protagonista, travestito da tenore, il tenore Enrico Pallazzo, sbaglia l'inno nella partita di baseball nella quale deve sventare un attentato. Sergio Silvestre, che lo sapete ormai tutti, ha sbagliato l'inno. E allora apriti cielo con tutti a scrivere: oh, l'avete voluto mettere là perché è nero. Così, questo era il concetto, le cose che si leggevano ieri assurdamente sui social. E quindi vi beccate l'inno sbagliato. Ma povero ragazzo, si è emozionato, punto e basta, in uno stadio deserto a cantare l'inno d'Italia. Eccolo, il povero Sergio Silvestre. Mai stato così emozionato, neanche quando sono stato ad Amici a Sanremo. È stata una cosa incredibile vedere uno stadio così vuoto e sentire questo eco fortissimo. Guarda, è stato incredibile che mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persona molto sensibile e queste cose qui, quando sono sul palco, mi coinvolge tanto. Ma povero Sergio Silvestre, Francesco, che dici? Che mi fa vergognare di più un paese che si scandalizza perché una persona di colore canta l'inno, che è una persona di colore che sbaglia, tra virgolette, che poi non l'ha nemmeno sbagliato, che ha esitazione sull'inno nazionale. Io penso a quanto possa e debba e quanto abbia provato Sergio Silvestre prima di quell'evento, e mi viene da pensare che forse veramente tutte le chiacchiere e tutta la spocchia con cui guardiamo il caso George Floyd negli Stati Uniti dovremmo tenercela a casa nostra in qualche modo, perché... Allora, il razzismo è una bestia cattiva anche da noi. Ci ha raggiunto purtroppo tardi, ci rimangono solo 3 minuti. Roberto Rossini, presidente nazionale delle ACLI. Rossini, buongiorno. Dove mi era finito? Buongiorno. Dove mi era finito, Rossini? Sto provando il telefonino, mi scusi. Senta, vediamo se riusciamo in 2 minuti. La sanatoria non sta funzionando, la sanatoria per i migranti non sta funzionando. Al momento gli ultimi dati parlano di 32.000 domande, di cui il 90% per colf e badanti. Cosa succede e dov'è il problema? Ci sono problemi, innanzitutto c'è un problema normativo, è un decreto, va ancora tradotto, quindi c'è ancora tutto questo fatto, quindi qualcuno non si fida. Perché bisogna capire se poi effettivamente sarà così, cioè se la legge sarà questa. Poi c'è un problema economico, costa caro, 500 euro nel primo caso, 130 euro nel secondo caso, e poi c'è anche la paura di emergere e poi magari se la domanda non viene accolta cosa succede? Quindi c'è anche questo. E anche noi, devo dire, come centri di patronato, eccetera, infatti in questo momento noi abbiamo garantito l'assistenza solamente a 1.500 persone, quindi relativamente poco. Quindi questo è il punto. C'è come Rossini, sì. In 20 secondi come si corregge secondo lei? Beh, innanzitutto dobbiamo chiudere il decreto e quindi va approvato. In secondo luogo va diffusa più informazione, perché c'è anche da dire che queste cose vanno diffuse in termini informativi, quindi le persone devono sapere quali sono i loro diritti, e in terzo caso bisogna estendere questa sanatoria a tutti, perché qualcuno ha davvero il timore di emergere e poi magari si scopre che il suo settore non è esattamente quello previsto dalla normativa, perché i settori sono solamente 3. L'agricoltura, l'allevamento, la zootecnia, uno se magari lavora in macelleria, che cosa vuol dire? Che è un'attività connessa, quindi bisogna allargare il numero dei settori produttivi a cui è connessa la regolarizzazione. Quindi più ampio il numero di settori. Grazie Roberto Rossini, presidente nazionale delle ACLI, le prometto che se ci risponde al telefono torniamo a farci una chiacchierata più approfondita. Le auguro buona giornata. Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Francesco, alla prossima GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.